stare qui, che tu non sai, sarei rimasto così. Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Se fosse stato, ma non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui. Vuoi sapere che sei soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato soddisfatto di che, ma va bene che sei, qualche volta mi sono sbagliato. Che eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa sei. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere che sei soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene che sei, se alla fine il passato è passato.